quest'oggi abbiamo deciso, in barba alle regole, di fare un test attitudinale, una domanda con tre possibili risposte. Parlavamo di Lemmy Kilmister dei Motorhead. Sapevate cosa faceva prima di diventare Lemmy Kilmister dei Motorhead? Tre le soluzioni che Freak vi ha proposto. La prima, roadie per Jimi Hendrix. Era forse questa la risposta esatta? Dispiace bruciarsi la risposta al primo colpo. E allora, colpo di scena! Era Roadie dei Jimi Hendrix. È vero. Era il lontano 1967 e Lemmy Kilmister lavorò per 6 mesi come roadie di Hendrix e per i The Nice del giovane Keith Emerson. Ricordiamo che il roadie nell'immaginario rock è l'aiutante, la giusta cavi del musicista. Lei quanti rodi ha avuto nella sua vita? Innumerevoli. Avrei incontabili. Voluto fare il suo rodi, anzi lo farò prossimamente. Quindi ovviamente è sbagliata la soluzione numero 2, dove si prevedeva che Lemmy fosse segretario della Apple dei Beatles. Altrettanto sbagliata che Lemmy fosse il cuoco di Roger Waters dei Pink Floyd. Fantasiose, eh? Fantasiose. Decisamente sì, le ho fatte io. Se avete azzeccato bene, se avete sbagliato, male. Se avete sbagliato male, ma non tutto il male viene per nuocere, perché sempre chiudiamo ragionando positivi. Per proverbi, sì. Esatto, pane, burro e rock and roll ha fatto la scelta positiva, quindi si impara, si imparerà dai propri errori. Continuate ad ascoltare pane, burro e rock and roll. Bravo! Ed avrete le esatte soluzioni, migliorerete a vista d'occhio. Fantastico. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Faccio anche il ripassino, perché Ace of Spades dei Motorhead è una delle canzoni che facciamo con la Rock FM Monster Band e non fa mai male ripassare. Ehi là fuori, qualcuno ha dei problemi? If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Sono le 8 e 34 minuti primi, la squadra di pane, burro, rock and roll terrà duro ancora fino alle 9, grazie a voi. Chiedono dove si terrà la consegna delle patenti, a Milano, Cascina Monlue. William chiede, leggere le risposte del test attitudinale su internet è rock? Insomma. Un saluto ad Emma Contino. Ringraziamo Friccantoni, il più grande poeta del suo condominio. Grazie anche ad Ariele, prego. E grazie anche a Giuditta. Altre domande? 10 metalmeccanici che ascoltano solo e da sempre Rock FM, ma sono dei rocker? Officina Desirò di Firenze, se sì vogliamo un aumento. Un saluto anche a Fa. Mi si è rotto il crepuscolare inserito in un microchip del collo. Mi sono destato con il sole alto, buongiorno. Buongiorno anche a te. Buongiorno ad Alba, vado all'Oktoberfest spesata dall'azienda. Serve qualcosa? Eh beh, una mezza idea ce l'avrei, Alba. Fai tu. Però ce n'era uno. Li salto tutti perché questo mi fa impazzire. Allora, scusate per gli altri, ma questo è carino. Nelle gallerie della Savona Genova non riesco mai a sentirvi. Oggi, a metà tunnel, fermo in coda, invece c'eravate solo voi con Giuditta e Isoradio. Isoradio, ti siamo alle calcagne, ricordatelo. Stai attenta, perché se ci mettiamo a fare le informazioni del traffico qui, Isoradio crolla. Tutti a casa. Che manica di scemi, ragazzi. innegabile a un primo ascolto di questa trasmissione, siamo una manica di deficienti, lo si capisce subito, caro no, Frick, è inutile veramente nascondersi dietro un dito, sì, glielo posso garantire, lo capiscono proprio al volo, se non fosse che abbiamo una valida redazione che lavora gratuitamente per noi e che tutte le mattine si sveglia molto prima di noi. A tempo pieno. A tempo pieno, per si dare sveglia dei contenuti a Pane, Burro e Rock and Roll. E allora e grazie applauso ad Isacco, ad Isaac della nostra redazione, che in questo 21 di settembre andiamo a ricordare la scomparsa di un artista mitico, soprattutto di un artista fondamentale per lo strumento basso. Per quanto riguarda i chitarristi ci sono tantissimi miti, ne potete ricordare anche voi parecchi, ma quando si parla dello strumento basso non sono tanti i veri nomi che saltano fuori. Il suo certamente uno dei primi, moriva quest'oggi nel 1987, Jaco Pastorius. Tra l'altro confesso la mia ignoranza, non sapevo della tragica scomparsa di Jaco, della serie Le vite maledette del rock and roll. Devo subito partire con una precisazione molto antipatica, so che questo non lo sopporterà, ma la devo correggere perché gli americani dicono Jaco Pastorius. Jaco, mi scusi. Jaco allora. Jaco allora. Allora, bassista che fu dei Temptation, pensi, delle e Supremes. Non e non solo. E dei Weather Report. Dicevo, non sapevo della modalità, tragica, della modalità tragica nella quale scomparì. Trovò morte, ripeto, quest'oggi del 1987, in seguito, sentite un po', ad un brutale pestaggio da parte di un buttafuori di un locale di Fort Lauderdale. Giorni prima, era il 12 di settembre, Jaco, ubriaco fino all'eccesso, venne cacciato da un concerto di Santana al Sunrise Music Theater per continui fastidi ed interruzioni. Vagò tutta la notte fino a trovare il Midnight Bottle Club, locale malfamato alla periferia di Fort Lauderdale. Nonostante gli fosse impedito di entrare, dato che l'accesso era riservato ai soli soci, il bassista insisteva di fronte alle negazioni del buttafuori Luke Heaven, finché quest'ultimo, esperto in arti marziali, picchiò violentemente Pastorius con diversi colpi di karate. Quando la polizia arrivò sul posto, trovò il musicista steso a terra, morente, con il cranio frantumato e con gravi ferite. Veramente incredibile la scomparsa di questo mastodontico musicista, riferimento sicuro per chiunque voglia suonare, approcciarsi allo strumento basso. E musicista che si spendeva in questo modo, vero rocchettaro, benché fosse un esperto di jazz. Anima dannata. Un'anima dannata, irrequieta, che vagava per le città, spesso in preda agli effetti delle droghe, dell'alcol, si spendeva completamente in queste nottate, in maniera anche eccessiva, senza cura per il proprio corpo, per la propria persona, per il proprio destino, che infatti è stato infausto, nel senso che lui era spesso fuori di decapa, si può dire, era spesso fuori di testa, era dedito a certi piaceri del dopo musica. Era doveroso, Pane, Burro e Rock and Roll, ricordare Jaco Pastorius. Popolare Network. No, in realtà siete su Rock FM, eh? No, mi piace un sacco su questo brano fare il verso, è la sigla che viene utilizzata dai colleghi di Popolare Network per i radiogiornali. Weather Report con Black Market, Popolare Network. E beh ragazzi, è ufficiale, eh? Da quando ha ripreso Pane, Burro e Rock and Roll siamo nella sfida degli ascolti. La missione in codice si chiama Davide contro Golia, sottotitolo La nicchia vincerà. Oggi già Isoradio l'abbiamo raccattata perché nelle gallerie si sente. No, no, non ho detto non stavo dicendo parolacce. Cos'hai capito, Caravelli? No. Vincerà, ho detto. La nicchia vincerà. No, hai capito un'altra cosa. Dicevo, Isoradio gli siamo alle calcagne perché ci si sente sotto le gallerie solo noi e loro. Popolare Network gli stiamo dietro, tanto passiamo i Weather Report uguali. Potrei inventarmi un radiogiornale, ma non sarei all'altezza. Lifegate ce la stiamo mangiando, è andata ragazzi. Puntiamo i network adesso. Ricordatevelo, la nicchia vincerà. 8 e 49 minuti primi, la macchina dell'SMS è ufficialmente in coma, sta tentando di scaricare troppi messaggi che stanno arrivando. Bravi, continuate così. Questo è Pane, Burro e Rock and Roll sulle frequenze di Rock FM. E questi sono i Nirvana. Vertice, culmine della trasmissione Pane, Burro e Rock and Roll, la presenza di Roberto Fricantoni dalle fila degli Schiantos, un intellettuale! Ah, prestato al servizio della radiofonia, lei mi lusinga, DJ Ariel. Stiamo ancora cercando con Spadino qualche applauso finto, perché questi ingressi senza applausi veramente non mi piacciono. Posso fargliene uno io? Guardi, poiché la radio dà il vantaggio di non poter vedere sì. dall'altro capo, aggiungo lei anche così, il mio lei applauso. Così freak sta, bravo! Applaudendo, sta applaudendo anche lei. No, adesso no, era solo un congiungere no, le mani. So perché con questi applausi mi confondeva con qualcun altro, probabilmente. Volevo rubarle questa battuta da tanto tempo, ce l'ho fatta quest'oggi. Andiamo a occuparci, grazie a un'ansia in ansia di quest'oggi, alla possibilità di rendere un lavoro che in molti snobbano, certo. che in molti ritengono un lavoraccio, certo. invece innalzare un lavoro agli onori dello sport. Certo, certo. Anche perché Pane, Burro e Rock and Roll tiene aperta una finestra sul mondo. Assolutamente. Laddove la realtà supera la fantasia. Ci trasferiamo a Pesaro. La porta che ci teniamo aperta è quella di diventare spazzini. Andiamo a parlare di Massimo Belardinelli, 36 anni, di Falconara Marittima, dipendente della CAM. È lo spazzino più veloce ed abile d'Italia. Complimenti. Un fenomeno di spazzino. Cronometro alla mano, lo hanno stabilito i giudici della 20ª edizione delle Netturbiadi. Le Netturbiadi, signori! Le Olimpiadi di categoria in corso a Pesaro. Belardinelli ha conquistato il titolo per la seconda volta dopo le Netturbiadi del 2006, vinte a Riccione. Si era aggiudicato nonostante fosse reduce da una grave malattia. Viva Massimo Belardinelli, ecco. E viva le Netturbiadi. Viva, viva, bisognerebbe sapere in quanti erano in tutto, però. Esatto, e cosa gli facevano fare. E cosa gli facevano fare. E poi le propongo una battuta finale di straordinario Aia. Effetto, Aia. Di straordinaria consistenza. Sì. Lei provi a pensare sì. allo spazzino per eccellenza, lo spazzino spezzino. Va bene. Appoggi il bastone, scusi, andiamo. Non è il caso adesso. No, il bastone. Andiamo lo di là, andiamo di là. No, lo spazzino, spazzino, bravo. Lo spazzino, bello, spezzino. Non l'ha mai scritta su un spezzino, libro. Sì, l'ho capito. Lo spazzino, spezzino. E mangia a pranzo lo spezzatino. Va bene, riponga, riponga la mazza di là, da baseball. Andiamo di là, via. Non è il caso. Imbarazzo a Pane, Burro, Rock and Roll, scusatelo, a una certa età. So capire da me quando una battuta è un fiasco. Non infierisca, DJ Ariel. E beh, che c'è? Open your heart, aprite il vostro cuore al buon rock and roll. Questo è il messaggio di PBR, pane, burro e rock and roll, gli Europe, a interpretarvelo alle 8 e 58 minuti primi. E questa è la fine, ma è la fine vera, Spadino. Qua ci cacciano prima o poi. Allora, il delirio della diretta radiofonica finisce. Se volete continuare con noi, questa sera mi trovate all'inaugurazione del Charlot, così si chiama, il posto dove vado a mettere i dischi, con Dome la Muerte. Questa mattina abbiamo tentato di disturbare telefonicamente, ma non ce l'abbiamo fatta. Maledetto Dome, ti batterò lo stesso. Dove? In Toscana, a Livorno. Come si chiama? Con le Salvetti, eccolo lì che mi è venuto in mente. Sigla! Archiviamo la puntata numero 15. Tra pochi minuti la troverete anche su RadioRockFM.com. Da gran signori! Pane, burro e rock and roll. Se lo vorrete, torna lunedì. La tua colazione roll. Ovviamente dalle 7 alle 9 in diretta. Pane, burro e rock and roll. Spadino, l'Ariele, Fricantoni, Isacco, lo stegista impagato e impagabile, vi salutano. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock. Perché conviene e perché fa bene, la colazione che dà assuefazione. Buongiorno Gravelli. Buongiorno, è venerdì oggi. Tu hai già finito, Cannaggia. Guarda, ho già finito, è sempre un parolone grosso. C'è finito, però... la parte on air. Esatto, la parte on air l'abbiamo terminata. Mi raccomando Gravelli, oggi li tratto male. Oggi ti voglio sul pezzo, perché sappi che nella Savona Genova ci sentono anche da sotto le gallerie. Ti è a tutti Quella. Quelli che si lamentano che Rock FM si sente male. Okay. È tutto, un buon weekend, noi ci si rivede lunedì. Me li tratti bene o male? Così e così. Bravo. A lunedì prossimo, ciao.